Seduti! Nell'ultimo numero del giornale scolastico è apparso un pezzo irriverente e non autorizzato. Anziché sprecare il mio prezioso tempo a dare la caccia ai colpevoli, state sicuri che riuscirò a trovarli. Chiedo a chiunque di voi che sappia qualcosa di questo articolo di farsi avanti subito, senza esitazioni. Chiunque sia il colpevole, infatti, questa per lui è la sola occasione di evitare l'espulsione dalla scuola. Welton Academy, pronto? Sì, è qui, un momento, prego. Signor Nolan, è per lei. È Dio. Chiede di ammettere le ragazze a Welton. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Credo che lui non sia stato un buon dirigente, non è stato empatico. Se c'era un problema, alcuni di noi sono stati lasciati fuori volutamente dal problema per poi mortificarti dopo. Non si potrebbe sospendere la decisione almeno per un giorno, chiedo, ma la sua risposta non lascia spazio. Professoressa, se vuole, ce lo porti lei in Inghilterra. Storie di capi e di palloncini in una puntata tutta dedicata al vizio della superbia. Lo avete sentito in apertura, abbiamo usato L'attimo fuggente, che è uno di quei film che credo abbiano visto più o meno tutti, spero abbiano visto più o meno tutti. Io lo ricordo quando lo vidi al cinema di Pernate con le sedie di legno, quindi parliamo di un bel po' di tanti, parecchi anni fa. Insomma, se non l'avete visto siete delle persone fortunatissime, se non l'avete visto sapete che cosa fare questa sera: guardare L'attimo fuggente. Robin Williams meraviglioso, tutti i suoi ragazzi sono tutti attori, i suoi ragazzi intendo i suoi allievi nel film, che poi hanno per lo più quasi tutti avuto un discreto successo e li avete visti e rivisti in altri film, e racconta quel film un certo aspetto ben preciso della superbia, che è la superbia che spesso ha a che fare con l'ignoranza dei capi, in quel caso il rettore della scuola, del college, che lo caccia perché diciamo dei metodi poco ortodossi. La puntata di oggi è dedicata a quello, è dedicata alla superbia di chi sta sopra di noi e delle volte decide in maniera arbitraria. La racconta benissimo la storia di Anna, che è un'insegnante e si trova ad avere a che fare con un docente, con un direttore scolastico che non le lascia spazio. Questa è una storia che parla di un avvenimento avvenuto a scuola, ma potrebbe essere riprodotta in qualsiasi ufficio, in qualsiasi luogo di lavoro, dove c'è qualcuno che cerca di fare banalmente il proprio lavoro, ma ha un capo che per un motivo o per l'altro gli mette o le mette i bastoni fra le ruote, e spesso e volentieri non si capisce perché. Io ho sempre la sensazione che ci sia qualcosa di estremamente personale in quel caso, cioè che non ci siano questioni professionali o invidie legate a posizioni di potere, anche perché di solito in questo caso si parla del capo che mette i bastoni fra le ruote a un proprio dipendente o a una persona che lavora per lui o collabora con lui. Quindi ho sempre la sensazione che sia una cosa proprio più umana che professionale. Qualche tempo fa, ricordo probabilmente all'inizio di Linee d'Ombra, quando parlavamo di superbia e avevamo già raccontato storie di capi poco carini, avevo trovato il solito articolo che riguarda il solito studio sulla superbia dei capi, proprio sul narcisismo e la superbia dei capi, e dava qualche consiglio su come comportarsi quando ad esempio il capo ti chiede in maniera arrogante di fare una riunione e tratta male qualcuno in riunione. E c'era un consiglio che mi divertiva, perché diceva il modo giusto non è dire sei stato maleducato oggi in riunione, e fin qui mi sembra che siamo tutti d'accordo, perché se è il tuo capo qualche altro termine probabilmente è più consigliabile. Lo studio consigliava di dire: ma immagina se qualcuno fosse maleducato con te, come ti sentiresti? Perché così nutri il suo egocentrismo, cioè lo metti al centro della situazione che gli stai facendo immaginare, lui si sente, come dire, nutre il suo egocentrismo, il suo narcisismo, però in qualche modo si ripulisce dalla superbia. Insomma, questi sono un po' gli studi che lasciano il tempo che trovano, e quindi li frequentiamo solo come, diciamo, en passant, per capire esattamente dove stiamo andando. Dove stiamo andando noi, come al solito, è a raccontare storie. Vi raccontiamo storie di capi e di palloncini, vi raccontavo in apertura, perché la superbia ha a che fare sia, sì, con un capo che può essere estremamente narciso e vuole fare tutto lui e ti impedisce di lavorare, ma può anche avere a che fare con qualcuno che cerca di sfidare la natura e non sempre ce la fa. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombre. Io non lo so che tipo di persona sia quella che ci ha tenuto in scacco per 8 anni. E soprattutto in una scuola dove tu sei lì perché pensi che ci sia una solida gerarchia per capire cosa è più importante e cosa meno. E la gerarchia, al primo posto, ha sempre il benessere dei ragazzi. La loro serenità, l'apprendimento, il senso di comunità, la solidarietà e l'accettazione di ogni differenza. O almeno secondo me. Questi sono i miei principi, non quelli del mio dirigente. Nei suoi anni da noi ha lavorato in modo da creare un clima di sospetto, di diffidenza, di vigliaccheria e anche di odio, sicuramente mio, nei suoi confronti. La tecnica di approccio all'insegnante aveva 2 modalità. Se eri nella sua cerchia di simpatie, non avevi che da chiedere e tutto ti sarebbe stato dato. Se non lo eri, tutto era perfettamente inutile. Per anni ha dovuto sopportare il mio piccolo laboratorio di teatro perché non c'erano reali motivazioni per non attivarlo. Ma per anni ha fatto di tutto per crearci problemi. I soldi sono pochi, i ragazzi devono pagarsi iscrizioni e rassegne, non c'è un'aula dove poterlo fare e se c'è, ogni tanto serve a qualcun altro, perciò voi spostatevi. Per anni ho chiesto un laboratorio con i ragazzi disabili, per anni. Mi è stato rifiutato sempre, accampando 1000 motivazioni. Io sono insegnante di ruolo e parallelamente anche attrice, operatrice teatrale, teatro terapeuta, regista, insomma il peggio del peggio ai suoi occhi, l'inutilità più inutile, fatta persona. Eppure negli anni abbiamo fatto un sacco di spettacoli in inglese, in italiano, in 3 lingue. Abbiamo coinvolto i ragazzi dell'Erasmus, abbiamo fatto laboratori con ragazzi disabili durante i giorni dell'autogestione. Tutto con un enorme guadagno in soddisfazione, gratificazione, felicità e naturalmente con una grossa rimessa economica. Allora, io insegno in una scuola superiore, è una scuola artistica, indirizzo artistico, quindi i ragazzi sono dai 14 ai 19 anni più o meno, e io insegno inglese. Penso che la sua antipatia nei miei confronti sia la conseguenza di 2 momenti in cui mi sono schierata apertamente contro di lui. La prima cosa è stato chiedere che l'iscrizione a una rassegna teatrale la pagasse la scuola. Non sto a spiegare, ma un gruppo di teatro, sempre della scuola, aveva l'iscrizione pagata alla rassegna e noi, stessa scuola e praticamente stesso tipo di laboratorio, noi no. Vado, chiedo, lui mi apostrofa con: ma lei non capisce che gestire una scuola non è mica come l'economia di una famiglia. Non mi posso mica togliere di tasca 50 euro per voi, sono 2 laboratori diversi, non lo capisce? Rispondo che lo capisco perfettamente e che in futuro forse avremmo dovuto ripensare alla gestione di questi 2 laboratori, ma che in fondo la cifra era bassa. Il secondo motivo di scontro è stato un episodio in cui ha partecipato tutto il consiglio di classe. Eravamo stati convocati per decidere un provvedimento disciplinare per un ragazzo, o almeno così credevamo. Arriva il dirigente che ci informa che aveva convocato il ragazzo e il padre. Di fronte a tutti ci dice del suo provvedimento disciplinare. Di lì a poco ci sarebbe stato uno stage in Inghilterra a cui il ragazzo si era iscritto. Ecco, lui invece sarebbe rimasto a casa. Noi ovviamente siamo sorpresi, ci saremmo aspettati una valutazione approfondita. Il ragazzo è un tipo un po' borderline e in casi come il suo farlo andare in gita può essere positivo. Il dirigente dice che gli accompagnatori si sono rifiutati di portarlo. Il padre, che aveva già pagato tutto, è stranito. Noi senza parole. Il tempo non aiuta perché saremmo dovuti partire di lì a pochissimi giorni. Non si potrebbe sospendere la decisione almeno per un giorno, chiedo io. Ma la risposta del dirigente non lascia nessuno spazio. Professoressa, se vuole, ce lo porti lei in Inghilterra. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Tempo dopo trovo un bando in cui sono proposti i finanziamenti per un progetto, lo propongo al dirigente e lui mi dà l'ok per prepararlo. Preparare i bandi è sempre molto complicato, ma arrivo ad ultimarlo il martedì, il bando scadeva il sabato. Due giorni dopo il dirigente mi manda un'email. È mio dovere informarla, scrive, che anche altri colleghi hanno fatto lo stesso bando e che preferisco la loro proposta. Chiamo vari colleghi, scopro che quando io ho proposto quel bando, il dirigente ha incaricato altri di fare il bando come lui voleva e ha aspettato il penultimo giorno per comunicarmelo. Verde di rabbia, tento l'ultimissima carta per non buttare il lavoro fatto. Chiamo i colleghi, chiedo se si possono integrare le cose positive dei due progetti. Loro si dicono d'accordo e nello stesso tempo invio una mail al dirigente informandolo che nello spirito di collaborazione che chiede il bando ho deciso insieme ai colleghi di integrarlo. Lui non mi risponde. Venerdì mattina l'appuntamento con i colleghi in segreteria è alle 10. Sono ancora in piedi sulla porta quando un collega mi avverte: il dirigente ha detto che non vuole che il tuo progetto sia inserito nel nostro. Mi dispiace. Con i miei colleghi io ho un rapporto, credo normale, né conflittuale né particolarmente confidenziale. Naturalmente ci sono quelli con cui uno ha più confidenza e quelli con cui uno ne ha meno, come in tutti i rapporti, i luoghi di lavoro, insomma. E ovviamente quelli con cui ne ha meno forse sono quelli che hanno un altro tipo di rapporto rispetto al tuo con la dirigenza. Cerco di restare calma, ma monta la rabbia per tutto il lavoro fatto, per gli anni in cui ha umiliato il mio lavoro, la rabbia nei confronti dei colleghi, che anche se inconsapevolmente si sono assoggettati a questi meccanismi, e la rabbia per il fatto che stiamo presentando un progetto contro il bullismo e si stanno attuando gli stessi meccanismi che vorremmo combattere. Dopo un mese circa ho saputo che il dirigente è stato trasferito e oggi so che anche nella nuova scuola sta creando problemi. Il clima da noi sta lentamente cambiando, anche se non so ancora se mi sono ripresa completamente. One, two, get down! Cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Look at me, you know what to see. See a bad mother. Look at me, you know what to see. See a bad. un po' di James Brown per tirare su il morale a tutti quelli che magari si sono ritrovati in una situazione come questa e adesso, ascoltando la storia di Anna, un pochettino l'hanno rivissuta, o magari, e questo è ancora peggio, la stanno vivendo in questo momento in ufficio, al lavoro, ovunque lavoriate, che non sia un ufficio, che sia un ristorante, un magazzino, insomma, tant'è, un luogo di lavoro. Sono dinamiche che si ripropongono più o meno uguale, che uno faccia l'insegnante, l'altro il dirigente scolastico, oppure uno faccia il magazziniere, l'altro il capo magazziniere. Pronto? Ciao Anna, buongiorno. Buongiorno, Anna, grazie. Ma grazie a te. Anna, ma perché faceva così? Tu hai identificato quei due momenti. Ma io tu... non lo so, ci ho pensato tanto, ma ho avuto tempo anche di pensarci 8 anni. Non l'ho capito e veramente ho tentato, cioè, di riflettere su tutte le possibili dinamiche psicologiche che ci potevano essere dietro, ma non ci sono arrivato. Senti, 8 anni sono lunghi da far passare quando tutte le mattine vai su un posto di lavoro e più o meno incontrerai, magari un giorno sì e l'altro no, però non tutti i giorni, insomma, però sai che lì c'è quella persona che fa di tutto per metterti in difficoltà. E la cosa triste è che credo che ci si abitui. E quindi ci si adatta, cioè ci sono delle situazioni in cui ti adatti e non è bello, perché appunto è triste questa cosa. Bisogna rifletterci su, bisogna secondo me non essere soli, ecco, e rifletterci con altre persone. Tu ne parlavi con i colleghi? Sì, con alcuni sì, con alcuni c'era, come dire, un piccolo zoccolo duro della scuola, in cui riuscivamo in qualche modo a... intanto ad alleviare un po' il peso e poi a tentare di capire anche lì insieme le strategie di miglioramento della situazione. E avete trovato una soluzione oppure avete mollato il colpo? Più no che sì, a volte sì, a volte no, a volte c'erano dei piccoli successi, a volte meno. Un piccolo grande successo l'abbiamo avuto negli 8 anni. Gli altri un po' meno, insomma. Senti, tu hai mai pensato di andartene? Se ne ha la possibilità, intendo dire, ovviamente. Sì, ci ho pensato. Ci ho assolutamente pensato. Sì, ne abbiamo la possibilità, possiamo chiedere il trasferimento. Naturalmente non è detto che uno possa andare da un'altra parte subito o negli anni. Cioè, può essere, però, sì. Senti, adesso va un pochettino meglio? Sì, un po' meglio, sì. Decisamente. Continui a fare i tuoi laboratori, i tuoi lavori? Continuo a fare tutto, ora è un po' meglio, ora continuo a fare tutto, nonostante tutto io continuo, poi vediamo, insomma, ho fiducia nell'umanità più che altro, nei ragazzi soprattutto. Senti, a cosa ti aggrappavi nei momenti più difficili? Al lavoro in sé, cioè al fatto che ti piace quello che fai, che sei un insegnante? Sì, credo di sì, al fatto che comunque alla fine la soddisfazione arriva dai ragazzi, tutto il resto... E credo che chi fa questo lavoro lo sappia, perché tutto il resto è veramente complicato, anche se non c'è una dirigenza del genere, ma se continui lo continui perché ci sono i ragazzi. Senti, visto che uno degli argomenti di discussione più ampi nell'opinione pubblica, al di là, insomma, delle notizie più calde, che so io, il virus o l'ambiente, sono sempre i giovani, no? I giovani sono sempre un grande argomento e spesso ne parlano degli anziani, per lo più, che stanno in televisione, e hai la sensazione che i giovani non è che li frequentino così tanto, salvo magari i figli e i nipoti. Chi invece fa un mestiere come il tuo, che quindi ha, immagino, diverse classi, tu che idea ti sei fatta dei giovani? Cioè i ragazzi, perlomeno, che tu hai avuto davanti agli occhi o che hai quotidianamente davanti agli occhi, che persone sono, che speranze hanno, che paure hanno? Allora, io credo che siano ragazzi, allora, quelli che abbiamo noi sono ragazzi secondo me molto bravi, anche fondamentalmente solidali, che comprendono, si parla tanto del fatto che non ci sia molta, come dire, riflessi emotivi, no? tra i ragazzi, che non si comprendono perché ci sono tutti questi telefoni, eccetera, eccetera. In realtà io credo che, forse perché è una scuola artistica, comunque il lavoro sull'emozione ci sia, i ragazzi la riconoscono, o se non la riconoscono comunque sono aperti a comprendere, ecco. Non li vedo così messi male, ragazzi, soprattutto se messi in condizione di poter dire la loro, di poter comprendere. Credo che appunto siano da ascoltare, okay, e da essere messi in condizioni di poter crescere bene, naturalmente. Anna, grazie mille, grazie per la storia, te, in bocca al lupo per tutto. Grazie. A presto. A presto, ciao. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare «Anche io ho vissuto una cosa simile. Anche io ho una storia da raccontare». Ecco, se ti è accaduto, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un vizio capitale, uno dei 7 antichi o uno dei nuovi vizi, quelli in cui incappiamo ogni giorno nel corso delle nostre giornate. E poi spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. È arrivato un bel messaggio sul nostro profilo Facebook, Linee d'Ombra Radio 24, proprio sotto il post che racconta la puntata di oggi, di Luana, che dice: grazie per parlarne, parla della situazione ai limiti del mobbing in cui si è trovata l'ascoltatrice di prima. Dopo quasi 7 anni ho scelto di uscire da un'azienda proprio per questa ragione, sto cercando di ricostruire una vita lavorativa stabile, ma sono molto felice di esserne uscita. Strascichi tantissimi, forse, però si può uscirne, e qui appunto la forza la fa un po' a se stessa, un po' alle persone che si trovano in questa condizione. E proprio sul post che riguarda la puntata di oggi, che Anita Panizza carica quotidianamente sul nostro profilo Facebook, c'è una foto che è una foto meravigliosa, che racconta la storia che stiamo per raccontarvi, o meglio, la storia che stiamo per raccontarvi racconta quella foto. C'è un cielo, che è un cielo americano, anche se non lo sapete ve lo dico perché è ambientato a Cleveland, ci sono dei grattacieli, ma soprattutto c'è una enorme bolla di palloncini colorati che sta salendo verso il cielo. Si trova a Public Square, questa foto è stata scattata esattamente lì, che è la piazza principale di Cleveland in Ohio, è la più grande città dell'Ohio nordorientale, sulla costa meridionale dell'Ohio, è uno dei 5 grandi laghi americani. La piazza è nota perché è stata il nucleo intorno al quale è cresciuta la città a partire dal XIX secolo, e soprattutto è nota per questa foto qua e per un record detenuto dal 1986, quando dalla piazza presero il volo nello stesso momento circa 1,5 milioni di palloncini gonfiati ad elio. In una puntata dedicata al vizio della superbia, la seconda storia di oggi è quella dei palloncini di Cleveland, che noi abbiamo letto sul post, che racconta la superbia dell'essere umano nei confronti della natura. Seguiteci lungo le linee d'ombra. L'idea di battere il record di lancio di palloncini venne in mente ai responsabili della United Way of America, un'associazione senza scopo di lucro che organizza iniziative di vario genere a sostegno delle comunità in difficoltà in giro per gli Stati Uniti. L'evento fu chiamato Balloon Fest 86. A fine settembre, nell'angolo sud-ovest di Public Square, fu installata una enorme rete rettangolare, 76 metri per 46, ancorata a 4 blocchi di cemento. Al di sotto di quella rete, più di 2.500 studenti, coadiuvati da altri volontari, hanno speso delle ore gonfiando palloncini con dell'elio. Palloncini che poi venivano rilasciati e fatti volare proprio all'interno della rete, che lentamente li conteneva uno dopo l'altro. Il progetto originario prevedeva di rilasciare 2 milioni di palloncini, ma in effetti l'ammontare totale fu di circa 1,5 milioni. Come testimonial per la raccolta fondi arruolarono principalmente bambini, i quali vendevano sponsorizzazioni chiedendo un'offerta di $1 per 2 palloncini. Sabato 27 settembre dell'86, con un fronte temporalesco in avvicinamento, gli organizzatori decisero di anticipare il rilascio dei palloncini alle 13:50. I palloncini volarono su Public Square, circondando la Terminal Tower. Il grattacielo più conosciuto e riconoscibile della città, con i suoi 235 metri di altezza, e facendo sì che la manifestazione battesse il precedente record mondiale, segnato solo l'anno prima, durante la festa per il 30° anniversario di Disneyland. Ma qualcosa andò storto. Out from my window, across from the city, I have what's considered a good view. 2 blocks from the subway, 3 from the fountain where I walk to break in the new shoes. She stands on the sidewalk just waving at taxis like horses and parades and passing. I ask where she's headed, she tells me Ohio. I've not seen my mother in ages. It's been a long time. is Ohio, she laughed and pointed out east. She said, I grew up there with my dear mother, and I haven't seen her since 13. You see, I was taken while she lay sleeping by my father's hired men. We moved to the city so far from my family, I haven't been back there since. Insomma, il record era stato battuto e la Balloon Fest 86 sembra essere riuscita senza particolari problemi. Ma non fu così. Come è noto, un palloncino riempito con dell'elio e lasciato andare in ambiente aperto vola per diverso tempo prima di sgonfiarsi del tutto e ricadere a terra. Nel caso del Balloon Fest 86, invece, i palloncini si scontrarono con un fronte di aria fredda e di pioggia che li spinse verso il basso, ancora gonfi, portandoli a invadere strade e corsi d'acqua in tutto l'Ohio nordorientale. Nei giorni successivi all'evento, moltissimi palloncini finirono anche sulla riva canadese del lago Eyre. Furono necessari frustranti giorni di lavoro per recuperare i palloncini uno ad uno, ormai sgonfi, per ripulire le strade, le vie e i corsi d'acqua intorno alla città. Gli organizzatori dovettero fare anche i conti con la morte di due persone che quel giorno erano a pesca sul lago. Raymond Broderick e Bernard Sulzer erano usciti per una battuta di pesca proprio sul lago Eyre il 26 settembre e furono dichiarati dispersi dalle proprie famiglie il giorno dell'evento. I soccorritori avvistarono la loro barca, ma l'elicottero di soccorso della Guardia Costiera ebbe molte difficoltà a raggiungere l'area proprio a causa della valanga di palloncini in cui si ritrovò immerso. Un'altra squadra provò a raggiungere la zona con una barca per individuare i due pescatori, ma i palloncini sul pelo dell'acqua resero impossibile vedere se qualcuno fosse nel lago. Il 29 settembre le ricerche dei due pescatori furono quindi sospese. Solo dopo alcuni giorni i loro corpi furono infine riportati a riva e la moglie di uno dei due citò in giudizio la United Way di Cleveland, la compagnia organizzatrice del Balloon Fest 86, per una somma pari a 3,2 milioni di dollari. La causa fu poi conclusa privatamente, con un accordo di cui non sono stati rivelati i termini. La città di Cleveland fu coinvolta in diverse cause. Uno degli aeroporti della città fu costretto a chiudere una pista coperta da palloncini, subendo diversi danni. Contro l'iniziativa si mosse anche un maneggio nella contea di Medina. Uno dei suoi cavalli si spaventò vedendo arrivare a terra decine di palloncini e si procurò ferite che gli impedirono di continuare a correre. Furono chiesti $100,000 di danni e tra le parti fu raggiunto un accordo per una cifra che non è mai stata rivelata. In ultimo furono riportate anche diversi incidenti automobilistici, dovuti al fatto che i conducenti delle autovetture sterzavano per evitare il flusso di palloncini o distoglievano lo sguardo dalla strada per osservare quel meraviglioso spettacolo. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for hands and then away. Both under influence, we had divine said to know what to say. Mind is a race of faith to call for hands of above. Start a simple touch, one night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made. Si chiama Heartbeats di José González. Questo pezzo e Luca Micheli l'ha scelto non solo perché è un pezzo meraviglioso, ma perché il video era un video splendido in cui una valanga, non di palloncini ma di biglie colorate, riempivano la città di San Francisco. Andate a vedervelo se ne avete curiosità. Tra l'altro vi ricordo che sempre sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra Radio 24 trovate anche la playlist, cioè i brani che Luca sceglie puntata per puntata. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Era l'11 ottobre del 63 e il Corriere della Sera scriveva così: l'onda della morte è una catastrofe inimmaginabile, cadaveri dappertutto, ma molti non avranno mai sepoltura. Il disastro si è svolto in pochi minuti, una valanga liquida è scesa fulminea dalla diga per la frana di un intero costone del Monte Toc, decine di milioni di metri cubi d'acqua e di fango caduti a valle in una ciclopica ondata, scomparsi 7 stabilimenti industriali, di cui uno della cartiera di Verona con 90 operai, trovate finora 400 salme. Questo è proprio il Corriere della Sera dell'11 ottobre del 63, a proposito di quello che tutti ricordano come la tragedia del Vajont. La tragedia del Vajont è una storia che parla meravigliosamente e perfettamente nel suo dramma immane della superbia dell'uomo. La superbia dell'uomo che ha deciso di costruire una diga in un luogo in cui c'era il rischio di frane. La diga, tra l'altro, appunto, l'incredibilità di questa storia sta proprio nel fatto che la diga, e quindi l'atto di superbia umano, è rimasta in piedi. È rimasta là e la si può visitare, la si può vedere anche adesso, in questo momento preciso. Quello che non era stato calcolato è che la frana avrebbe fatto scavallare un'onda d'acqua alla diga, che avrebbe invaso la valle e avrebbe di fatto cancellato il paese di Longarone, portandosi con sé più di 2000 persone. Questa è una storia che noi abbiamo conosciuto anni fa, grazie alla storia che Marco Paolini ha raccontato in tutti i teatri italiani e l'ha raccontato anche in TV, e fu un caso televisivo incredibile, di grande successo. Tra i vari libri che sono stati scritti, Lucia Vastano, che è una giornalista, è una reporter di guerra che ha viaggiato in tutti i paesi in cui ci fossero dei conflitti per raccontarli, ha scritto questo libro molto interessante che si intitola Vajont, l'onda lunga. In un passaggio di questo libro, proprio in apertura, lei racconta non tanto l'avvenimento, ma racconta come l'uomo abbia deciso, nonostante il rischio che correva, in nome di una superbia o di un narcisismo che chissà da che parte stava e chissà da dove è stata tirata fuori, come ha deciso comunque di fare quello che ha fatto. La storia della costruzione della diga del Vajont parte da molto lontano. Parte proprio dall'inizio della storia contemporanea dell'Italia, quella che può, per poco ancora, contare su qualche testimone vivente, i nostri padri, nonni, persino i bisnonni dei nostri figli. È una storia così completa, in tutte le sue perverse sfaccettature, che se analizzata con attenzione ci permette di capire come è nata quella brutta abitudine italiana di confondere le ambizioni e gli interessi pubblici con quelli privati. Ci permette anche di capire come si siano consolidate, invece di dissolversi, persino con l'avvento del sistema democratico, le inossidabili caste italiane, quella politica, quella della grande imprenditoria e della finanza, quella religiosa e anche quella mediatica, al servizio o semplicemente soffocata da tutte le altre. Le caste, nell'erigere la diga del Vajont, si diedero una mano a vicenda, fecero affari tra loro, esclusero la gente da qualsiasi dialogo o discussione. Non vollero in alcun modo essere annoiate mentre erano occupate nella realizzazione dei loro progetti. È con il Vajont che avrebbe dovuto essere coniata la parola inciucio. Fu l'Italia dei padroni, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, a scrivere la storia del Vajont sulla pelle di quasi 2000 italiani morti e delle loro famiglie. E poi questi stessi padroni fecero quadrato per proteggersi a vicenda e per erigere quel muro di gomma resistente quanto la diga stessa, che mentre loro continuarono impunemente a fare i loro affari, impedì alla verità di venire fuori, persino quando ancora si potevano salvare migliaia di vite umane. Dormite tranquilli, continuarono a dire le autorità, anche quando sapevano, con la certezza della scienza, quello che stava per accadere. It's made up of lonely moments. There was always a moment there when I knew. You are installments. Always knew you concentrated and grew. And I believe in reinvention. Do you believe that life is holding the clue? Take away all the lonely moments. Give me full communication with you. Your smile, shine a little light, all right. And don't hide, shine a little light. Give up on your pride. Invention. Do you believe that life is holding the clue? Any way to face the silence? Any way to face the pain that kills you? Your smile, shine a little light, all right. È Linea d'Ombra, è Radio 24, vi stiamo raccontando storie che hanno a che fare con la superbia e quest'ultimo brano l'abbiamo trovato su questo libro che si intitola Vaillant, l'onda lunga, firmato da Lucia Vastano. Ora continuiamo a raccontare andando verso la fine di questa puntata, lasciamo la parola al microfono che Mauro Pescio sta portando in giro per l'Italia per raccogliere le storie seriali che giorno dopo giorno, mese dopo mese addirittura, in alcuni casi la storia di Giorgio Bazzega, che è stata una storia molto molto apprezzata dal nostro pubblico, noi siamo felici. Siamo felici per lui e lo ringraziamo ancora per avercela raccontata. Vi dicevo, la storia di Giorgio è durata praticamente un mese e mezzo. Da ieri, da lunedì, abbiamo cominciato una nuova storia che parla proprio di superbia. È un altro atto di superbia. La superbia ha a che fare con il sentirsi alla stessa altezza degli dèi, delle divinità. È un atto come quello che ha compiuto quel giovane uomo che è entrato in una scuola in Florida 2 anni fa e ha ucciso 17 persone. Ha a che fare con la vita e con la morte e quindi ha a che fare con il sentirsi come un dio. Mauro ha incontrato Cheryl, che è una ragazza di genitori italiani, che è cresciuta prima in Inghilterra e poi in Florida e si trovava in quella scuola il 14 febbraio del 2018, la Marjorie Stoneman Douglas High School in Florida, e alcuni tra i suoi compagni sono stati tra i 17 caduti all'interno della scuola, e lei quella storia ce l'ha raccontata così. Do you remember the time in England? Yeah. No? Mm-hmm. It was very rainy and cold. Ricordo benissimo il periodo a Londra. Era molto piovoso. Ho iniziato la scuola a Londra a 5 anni. Quando sono arrivata in Florida ne avevo 10. All'inizio ero un po' spaesata, perché è tutto enorme, è tutto diverso rispetto all'Europa. Là ti inculcano nella testa che ogni strada è possibile. Sembra tutto molto più facile che in Europa, che a Londra. Le persone sono tutte abbastanza tranquille, tutte rilassate. È più facile parlare con gli altri, è più facile anche andare in spiaggia, mettersi a chiacchierare, trovare nuovi amici. Prima di arrivare in Florida, abbiamo vissuto per qualche anno a Milton Keynes, una cittadina a nord di Londra, a meno di un'ora di distanza. Un posto abbastanza moderno, dove papà faceva il fotografo, il grafico. Non era male, ma era pur sempre il Regno Unito. Socialmente è molto diversa come tutto è impostato, molto più gli Stati Uniti sono enormi, quasi dispersivo. Qua in Europa è tutto molto più piccolo, però si sente più una vicinanza quasi fra persone o comunità, insomma, cioè quando ti senti parte di lì invece è molto più è proprio espansivo, perciò ti perdi un po', diciamo. Noi avevamo della famiglia lì, avevamo parenti di mia moglie, perciò abbiamo un po' iniziato con loro, poi però, piano piano abbiamo fatto amicizie, però era, sì, no, non era facilissimo per noi come adulti. Tra l'altro noi abitiamo in una zona abbastanza costosa, lì dipende da dove abiti, c'è la scuola che serve quella comunità. Dipende dalla comunità, la scuola può essere migliore o insomma un po' più mediocre, diciamo. Quindi no? La scuola dove andava lei. La scuola dove andava lei era è uno dei migliori licei della Florida. Ah, okay. C'hanno programmi, perché tutta la zona circostante è piena di gente benestante. E questo è solo l'inizio di questa storia. Nei prossimi giorni Cheryl, insieme a Mauro e al padre, la voce che sentite è quella del papà di Cheryl, che appunto è italiano, e sono stati prima a Londra e poi in Florida per cercare una vita migliore per loro e per la propria figlia, ci racconterà i dettagli anche di quella giornata terribile. Se per caso volete rinfrescarvi la memoria, per magari per ascoltare con più oculatezza questa storia, cercate massacro oppure sparatoria Florida 2018 e vi appare tutta quanta la storia, perché purtroppo ormai siamo quasi assuefatti e questi massacri scolastici si confondono nella nostra mente e nel nostro ricordo. Io ringrazio tutti quelli che rendono possibile questa trasmissione. Riascoltatela, riascoltateci. Ora invece ascoltate il GR. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!